È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me. E basta la salute. Cominciamo così con un po' di ottimismo. Canzoni bellissime, solo musica italiana in questa diretta speciale Wombat. Un cuore cantatore, la voce è poca ma intonata. Non vale per me, non ho la voce poca e non è intonata, la mia è bassa ed è emozionata. Infatti da quassù, prima regia con questo computerino e questo internet dalla Val di Susa, dove sono confinato da qualche giorno, e quindi sì, emozionato perché è la prima volta che riusciamo con questo computer a attivare la regia mobile. Ringrazio ovviamente tutta Wombat per dare gli spazi della diretta speciale coronavirus COVID-19 per stasera dalle 7 alle 8 e mezzo Vittorio a compagnia, quindi stappate una bottiglia di vino, una birretta, se non succo di frutta, quello che ci avete in casa, perché da ora fino alle 8 e mezzo, insomma, musica bella, qualche informazione di attualità e poi insomma due chiacchiere insieme le faremo. E quindi faccio ascoltare ancora un pochino questa canzone e poi si va con la sigla. E marintontoniva de bugie. Canzone belle appassionate, che Roma mia ma ricordate, cantate solo per dispetto, ma con asmania trenta al petto. Io non ve canto a voce piena. 19.03, assolutamente puntuale questa camicia dalla regia valsusina, incredibile. Ovviamente il ritardo di 15 minuti oggi è stato completamente cancellato, anche perché almeno alle 8 e mezzo anch'io a mangiare. Attendo informazioni da chi sta ascoltando in questo momento. Se mi conoscete e avete il mio numero, scrivetemi se sta funzionando la regia, perché io prima di cantare Vittoria attendo l'ok da parte vostra. Anzi, andiamo un attimo a vedere in quanti siete, grazie a uno strumento bellissimo che si chiama Stream Punk, che mi rivelerà in pochi istanti il numero di voi bombati e bombate che mi state ascoltando. Attenzione, attenzione, 14 è già il record. Dai, dai, dobbiamo arrivare a 14.000 nei prossimi, abbiamo un'ora e mezzo per arrivare a 14.000, ma anche se rimanete 14 va benissimo. Perché mi sento friccicone recore, tanto che sognà, perché nel petto invece naschi un fiore, fiore di lilla, che mi rivolti a essere primo amore, che sospirava le canzoni mie. E marintonto mi va de bugie. Evviva, è soldo alla fine, come sempre ci insegnano le grandi canzoni italiane. Grazie mille a Bricobaldo che mi sta adesso scrivendo, dice tutto perfetto, quindi pare che ci sia la diretta. Di cosa si trattano queste dirette? È cominciata forse 6-7 giorni fa la prima diretta speciale, proprio per tenere aggiornati anche tutti sui nuovi numeri, su quello che succede, ma non solo, tanto insomma c'è, basta la protezione civile per dare delle informazioni quotidiane. Noi cerchiamo anche di dare voce magari a altre persone che ci inviano via via i contributi, e si parla da operatori sanitari fino insomma a persone che stanno in casa, magari non sanno bene che cosa fare, e inviano contributi anche molto interessanti, da audiolibri fino a riflessioni filosofiche, passando per consigli alimentari ma anche consigli musicali. E infatti proprio oggi ci occuperemo anche di questi consigli musicali. In questi giorni avrete visto come i social sono pieni di musicisti in casa a suonare ognuno per conto suo, ma non solo, perché grazie agli strumenti di Skype ed altri hanno fatto anche delle belle performance di gruppo, anche se ognuno a casa propria. Voglio ricordare quella che ho visto oggi, molto bella, del Romano insieme al Pozzolini e altri che hanno, hanno fatto Oblivion di Astor Piazzolla, bellissimo, erano mi sembra 5 o 6 musicisti, poi non ho studiato abbastanza quindi non so dirvi tutti i nomi. Comunque li saluto ad uno e direi che è il momento della sigla. Una sigla composta da due parti, ovviamente una che noterete molto gioviale, simpatica, e una seconda invece che è caratterizzata dal grosso disagio che si può respirare in questi giorni. Masha e il coronavirus. Ciao cugine, avete sentito che le scuole sono chiuse e noi siamo in vacanza? Beh, Dasha, non è proprio così. Non siamo in vacanza. Non lo sai? Le scuole sono chiuse a causa del coronavirus. Sì, ho sentito mia mamma parlarne, ma non ci ho capito un bel niente. Beh, se vuoi te lo spieghiamo noi. La mamma ci ha fatto vedere un video molto utile e ora siamo delle vere esperte. Ah, sì? Beh, per prima cosa ti diciamo che il coronavirus è un mostriciattolo molto piccolo. È furbo e si rende invisibile. Si può vedere solo al microscopio. Ah, sì? E cosa fa? Sembra influenza, però è pericoloso per le persone anziane o deboli, come i nostri nonni. Per ora non ci sono medicine per curarlo. Ma gli scienziati stanno studiando il vaccino che lo sconfiggerà. Ma nel frattempo noi dobbiamo difenderci. E cosa possiamo fare? Beh, vieni con noi. Per prima cosa dobbiamo lavare bene le mani, almeno per 20 secondi, più volte al giorno. Cercare di non mettere le mani in bocca, negli occhi e nel naso. Non ci si scaccola più. Non starnutire addosso agli altri. Ma piegare il gomito e starnutire lì. E se devi sputare il naso, usa dei fazzoletti puliti e buttali subito nella spazzatura. Ora ho capito. Dal momento che siamo a casa da scuola, potremmo andare al centro commerciale o alla ludoteca. Prima ho visto che c'era un sacco di gente. No, Dasha! Un'altra regola importante è di evitare i posti pieni di gente, perché potrebbero passarci il virus. Meglio stare a casa tranquilli. Ma che noia! Che dici? Sono tante cose da fare a casa. Si può cucinare, disegnare, fare slime, guardare film, ascoltare musica, giocare con i videogiochi. L'importante è stare slime in casa. E i nostri genitori usciranno solo per le cose importanti, come andare a lavorare o fare la spesa. Se tutti seguiremo queste regole, presto il virus se ne andrà. Ok, ora ho capito davvero bene. Bambine, che ne dite di venire a fare una torta tutte insieme? Sì! C'è rabbia in questa seconda parte. Anche ascoltando i Contagio, gruppo spagnolo, punk un po' duro. Che lasceremo proseguire in sottofondo dolcemente sulle mie parole. 19.09, Wombat Radio, dai Rottai Wombat in questi giorni, perché le dirette si stanno veramente susseguendo una dopo l'altra. Ci sono programmi veramente interessantissimi. Mai è stato così vivo il palinsesto di Wombat, quindi dal sito wombat.noblogs.org potete vedere ogni giorno quali sono le dirette della giornata e anche dei giorni a seguire, ma insomma date retta ai Wombat perché possono esserci dei cambiamenti anche all'ultimo. Come dicevamo, insomma, una diretta fatta anche per alleviare un po' gli orari e queste ore in cui uno passa a casa, quindi io mi auguro che stiate tutti pronti con un bicchierin di vino. E nel frattempo io stavo guardando un po' i nuovi numeri usciti alle ore 18 e qualcosa della Protezione Civile, ma direi niente di nuovo, più o meno i numeri in aumento sono gli stessi da qualche giorno. C'è stato in realtà, se uno va a vedere, questo è molto interessante il sito, andate a vedere le mappine del Dipartimento della Protezione Civile che grazie al super programma ArcGIS riescono a farci vedere mappa dell'Italia divisa anche per province con tutti i casi. Provincia di Firenze mantiene una ventina di casi al giorno positivi in aumento, mentre a destra nella mappa si vede i grafici dell'incremento giornaliero degli attualmente positivi, che fino al 9 marzo stava crescendo esponenzialmente, adesso invece fa dei saltelli, ma anche si ferma per 2 o 3 giorni come a voler cominciare a scendere. Siamo qui ovviamente in attesa che scendano questi numeri piano piano, e si prevede, si spera che succeda nel corso della settimana o della prossima, come gli esponenti e eminenti nomi della scienza ci stanno dicendo. Chi mi conosce sono Camicia, chi non mi conosce sono Camicia lo stesso, e vi dico di scrivermi se volete un sms, non vi darò il numero, anzi 1441668000, mentre chi conosce quello vero scrivetemi, perché almeno potete raccontarmi qualcosa e mandarmi degli audio che io proverò a mandare anche subito in diretta qui per voi. Come dicevamo all'inizio, ovviamente solo musica italiana qui dal retreat, dal mountain retreat in Val di Susa, quindi andiamo subito ad un altro brano prima di cominciare con le nostre rubriche della giornata, che saranno in particolar modo dedicate alle ideone che ci hanno i musicisti in questi giorni, i loro consigli su come passare il tempo, e poi avremo anche dei contributi un po' più specifici su una riflessione sulla paura che questo coronavirus sta generando a livello sociale, e un'altra riflessione invece da un medico di Ragusa. A voi un po' di musica ovviamente italiana e ovviamente positiva. Solo questo, non c'è niente di meglio che stare ferma dentro a uno specchio, com'è giusto che sia quando la sua testa va giù. C'è Carmine qui accanto, sì, mi dice tanto, mi dà tanti importanti consigli musicali, ovviamente la scelta femminile bellissima, tutte cantautrici italiane, viene proprio da Carmine, da cui viene anche l'altro importante consiglio che fa diretto alla mia persona, di parlare un po' più col diaframma, se no si sente che la mia voce è imbarazzata, così come si fa a allenarci a parlare col diaframma, non l'ho mai capito, infatti non sono un cantante, devo chiedere a Simo il nostro cantante, che saluto se state in ascolto. Ho appena scoperto che siete saliti a 17.000, togliete il mila, ma siete 17 ascoltatori e ascoltatrici, grazie, questo penso sia veramente una cosa incredibile. Intanto metto un bel tappeto funky sotto, perché se no uno si annoia a sentire soltanto la mia voce. Diversi sono stati i contributi che mi avete mandato, grazie mille, grazie alla tecnologia di WhatsApp che ci ha consentito di farci arrivare lo sponsor WhatsApp della trasmissione, oltre all'Amaro la Vita. Mi avete mandato appunto molti contributi riguardo a consigli su che cosa fare quando non sapete che cosa fare, ecco. Cosa fare, soprattutto se siete dei musicisti, quali sono i consigli da dare. Il primo che mando è dalla Fruz, una mitica bassista dei Motherfunkers e attualmente dei Pops, quindi la mando subito e sentiamo un po' qual è il suo. Prego. Allora, primo consiglio dalla Fruz per il musicista in quarantena. Sarà un consiglio banale, ma probabilmente studiare o suonare o fare, esplorare qualcosa che non si è mai fatto, che non si è mai avuto il tempo, perché ci lamentiamo sempre che non abbiamo il tempo, mamma mia c'è un sacco di cose da fare, di qui e di là, però adesso il tempo ce l'abbiamo, per cui io personalmente mi sto per esempio facendo un corso di Pro Tools, che non è, tra l'altro non so come sono incappata in un corso della Berklee, praticamente gratis, però basta probabilmente cercare un po' online tra varie promozioni, tipo che ti iscrivi ai siti c'è un sito che si chiama Skillshare che offre 2 mesi gratis, quindi precisi per la quarantena, 2 mesi gratis di corsi, tra cui c'è music production, c'è un sacco di cose, anche music theory, quindi fighissimo, uno si iscrive e fa dei corsi e si impara una cosa nuova, magari appunto impara a registrare dei suonini oppure a fare degli effetti oppure a autoregistrarsi come sto facendo io su un corso di Pro Tools che non ho avuto mai il tempo di fare ma che adesso grazie alla quarantena ho il tempo di fare. Consiglio numero 2 della Fruz per il musicista in quarantena è leggere, di nuovo leggere è una cosa che tutti si lamentano di non avere mai il tempo di fare, adesso ce l'abbiamo, quindi no excuse. E il libro che consiglio, rimanendo in tema musicale, è un libro molto figo che ho già letto, che mi rileggo a pezzi ogni tanto, e si chiama Come funziona la musica, di David Byrne. Probabilmente altri te l'avranno suggerito perché è piuttosto famoso. E David Byrne è comunque ovviamente conosciuto per i Talking Heads, però questo libro fa veramente un'analisi della musica dal punto di vista storico, sociale, di come si è evoluta, di come si è rapportata negli anni e anche di come funziona il music business, detto da uno che comunque ha sempre fatto cose sperimentali, nuove, innovative, ed è sempre abbastanza, insomma, diciamo, ha avuto successo nel mainstream, ecco. Non è che i Talking Heads sono sempre stati un gruppo all'avanguardia, ma ascoltabile, ecco, anche dalle masse. Quindi è brillante, è un libro brillante. Consiglio a tutti i musicisti di leggerlo. Un po' di Barodrom e su Macumannu ce la manda Gabriele Pozzolini, che salutiamo e di cui ascolteremo dopo l'audio dei suoi consigli al musicista in quarantena. Thank you. magici, magici barodrome. Salutiamo Gabriele Pozzolini, ciao, ciao, ciao. Adesso ti mandiamo anche a te, visto che ha avuto la gentilezza di mandare anche lui il audio. Insomma, Wombat, come vi raccontavo prima, ha avuto questa brillante idea di partire con dirette speciali a manetta, praticamente tutti i giorni dalle 7 alle 9, sappiatelo, c'è. Oggi invece fino alle 8 e mezzo, perché poi ci sarà la Garufa Live, un'altra diretta speciale dalle 20:30 fino alle 23. Insomma, qui dalla Val di Susa si raccontano varie cose che piano piano vi racconterò nel corso di questa diretta. Arrivano gli echi delle cascate e nient'altro. C'è il silenzio intorno al borghetto, abbiamo finito il vino, quindi credo che ci sposteremo piano piano in paese a comprare un po' di viveri prossimamente, ma nel frattempo ascoltiamo musica e soprattutto ascoltiamo i consigli preziosi della Fruits, per esempio, che avete appena sentito, che effettivamente ha dato dei buoni consigli. Imparate qualcosa di nuovo, fatevi un corso online, imparate a fare video editing per esempio, o a mixare con Audacity, tutte cose che alla fine nella vita sono utilissime. Ma leggete anche dei bei libri, quello di David Byrne per esempio è un ottimo consiglio. Sentiamo invece compagno Pozzolini che cosa ci manda. Lui ha sempre delle ottime idee. Ovviamente devo cercare il file. Nel frattempo vi faccio ascoltare un po' di questa pezza. Pronti al secondo consiglio della giornata. Di lui abbiamo sentito prima su Macumannu, che come tutte le sardi ci insegnano vuol dire il grande matto, se non sbaglio. Aio, e tassesi Macusesi. Eia, quindi andiamo col secondo contributo. Vai Gabri. Ciao Nicolò e un saluto a Radio Wombat. In questi giorni di quarantena io suggerisco di dare spazio dalla nostra parte creativa per i musicisti. Scrivere brani inediti o trascrivere canzoni che ci sembrano interessanti, così da seminare per il futuro, che sarà sicuramente roseo. Un'idea che mi era venuta era quella di creare dei cofanetti virtuali che racchiudessero tanti artisti diversi, così diciamo da mantenere viva l'attenzione sui vari progetti, sui vari gruppi che ognuno ha. Io sto collaborando ormai da anni con Musica Strada, un'agenzia di booking che ha tanti bravi artisti al suo interno. Io sono nella Barodrome, ma nel Rooster ci sono anche i Surrealista, Fanfara Station, Ilaria Graziano e Francesco Forni, Sara Jane Ceccarelli e tantissime altre belle realtà. Quella di far gruppo e quindi di promuovere la musica insieme può aiutare, diciamo, anche in questo momento difficile ad allargare il proprio pubblico nell'attesa di un ritorno ad un'attività normale che sicuramente ci sarà presto. Un abbraccio. E un abbraccio a te, caro Gabri, un abbraccio a te, complimenti per tutte le cose che stai facendo anche da casa tua, balli, danzi, musiche, di tutto, perché questo bisogna fare in questi momenti. Cerchiamo di perdere il meno tempo possibile a infamare, farsi infamare sui social, e piuttosto quando ci svegliamo la mattina scriviamo una listina, se vogliamo, di cose che vorremmo fare, che non potevamo fare fino a una settimana fa, perché forse non avevamo il tempo, ecco adesso invece c'è, eppure troppo. E quindi insomma diamoci e sbizzarriamoci. Noi per esempio Wombat Radio ci siamo animati con queste serie di dirette speciali perché per fortuna l'internet arriva anche quassù e quindi abbiamo detto vai, proviamoci, e ci siamo pare riusciti. Val di Susa, ovviamente qui succede, sapete, insomma un po' di tutto, e ultimamente anche qua è tutto completamente bloccato. addirittura con una notizia di ieri, di un giornale francese, pare che sia stato proprio bloccato, senza una data, diciamo, di conclusione, il cantiere per il tunnel geognostico, per cui adesso è veramente tutto bloccato, e contemporaneamente Nicoletta Dosio, dalle carceri in rivolta, ha scritto una bella riflessione, una bella lettera. Ricordiamo Nicoletta Dosio, un'attivista no TAV, 73enne, ex professoressa di storia, che da 30 anni lotta contro questa grande opera, ha deciso tra i domiciliari e il carcere, ha deciso questo novembre di non accettare i domiciliari. Per cui dal 31 dicembre è nel carcere Le Vallette a Torino e continua da lì a scrivere comunque testi bellissimi di ispirazione per tutti. Quindi abbiamo deciso di leggere l'ultimo che ha scritto esattamente ieri, e per questa occasione c'è Carmine che con la sua bella vellutata voce femminile proverà a leggerlo. Care compagne e compagni, stai per iniziare un'ordinaria settimana di coronavirus. Per chi è in carcere sono giorni più pesanti che mai. Cresce l'impressione di sentirsi in trappola, costretti ad aspettare immobili un male che da un momento all'altro ci può saltare addosso. La tempesta di comunicati sul virus ci cala in testa dall'alto, dalle TV accese in tutte le celle. Le statistiche dei contagi, dei morti, la corsa affannosa per tappare i buchi di una sanità pubblica da decenni volutamente falcidiata fanno da controcanto al tamburo del cuore che tra queste sbarre batte il ritmo dell'ineluttabile. Qui dentro non c'è prevenzione reale, anzi, le cosiddette misure preventive non hanno avuto altro risultato che peggiorare il disagio e l'isolamento. Niente colloqui con i parenti, niente pacchi, né portati né spediti, sospese tutte le attività scolastiche e culturali, nessuna possibile attività di supplenza via internet, dal momento che in carcere non c'è accesso a strumenti informatici. Anche le cose più semplici, come lavare gli indumenti personali, qui dentro diventano un'impresa. Da settimane la lavatrice a gettoni non è utilizzabile, l'unica alternativa è farsi il bucato nella doccia comune. Se qualcosa è cambiato, lo è in peggio, come il rincaro dei prezzi dei generi di prima necessità, acquistabili soltanto allo spaccio interno. E veniamo alle presunte misure igieniche per prevenire il virus. Per noi si limitano ad un bicchierino di sapone liquido e una mezza bottiglietta di disinfettante per ogni cella. Sono vietati disinfettanti quali candeggina, alcol e ammoniaca. Quanto alle cosiddette mascherine, sono obbligatorie per gli avvocati, ma ne sono totalmente sprovvisti gli agenti, che pure vanno e vengono dall'esterno. Insomma, io speriamo che me la cavo. Il dato più incontrovertibile e preoccupante è il sovraffollamento del carcere con la presenza di bambini, detenuti anziani e malati cronici. Come nel resto del paese, anche alle Vallette si vive in una specie di polveriera che deflagrerà al primo colpito del morbo. La speranza di tutti è un qualche provvedimento che permetta la carcerazione. Giorni fa è comparso nelle sezioni un avviso in merito, parallelamente alla distribuzione di una brochure che fosse informativa sulle misure alternative alla detenzione, in realtà vecchia già in un anno. Il comunicato precisa che si è costituita una commissione per vagliare le domande alle misure alternative, ma le condizioni sono quelle già in vigore. L'unica cosa chiara del comunicato è che al momento sono sospesi per i detenuti tutti i permessi di uscita dal carcere. Del resto, il ministro di ingiustizia l'ha dichiarato. Niente svuota carceri, indulti, amnistie. Tranquilli, uomini d'ordine. Insomma, l'ordinario rigore non muta, anzi peggiora, in un clima di preoccupante irrazionalità. Ci sentiamo più che mai espropriati di noi stessi ed in balia di chi ci controlla. Mentre scrivo, mi arriva il rumore dell'ennesima battitura alle inferriate. Tra poco saranno la mia cella. Poche sere fa, qui tirava un'aria particolarmente di minaccia. Aumento della vigilanza in sezione, ronde potenziate ai camminamenti sulle mura, il ronzio dell'elicottero sopra il carcere, tutta questa militarizzazione per fronteggiare, come preannunciato. Mentre scrivo, mi giungono dalla TV immagini della città nell'epidemia. Strade deserte, ma un tripudio di balconi con famiglie affacciate, canti e inni che si inseguono da casa a casa, sventolia di drappi e di bandiere. su tutto il tricolore, lo stesso che un paracadutista dell'esercito fa sventolare mentre plana verso terra appeso al suo paracadute. Anche qui in carcere, ieri una detenuta proponeva un applauso collettivo al mondo fuori, in nome della patria che resiste, ma la sua proposta non ha avuto successo. Quell'inno e quella bandiera non li sentiamo nostri. La fratellanza è una cosa seria, che non si confà all'indifferenza che dall'esterno sentiamo per il nostro destino di figli di un Dio minore. Quanto al tricolore, è lo stesso che insieme al vessillo dell'Unione Europea staziona all'ingresso del carcere e che viene esibito ogni giorno sulle divise dei nostri carcerieri, che non ci appartiene. 16 marzo 2020, Nicoletta. Ciao Nico, sei sempre con noi, ci manchi tanto. There's a song for each of us. There's a melody unheard, and I have all the lyrics to your songs without words. Love stares you straight in the face, looks you straight in the eyes before you bend your eyelid. Made it blend. There's a song for each of us. There's a melody unheard, and I have all the lyrics to your songs without words. I was writing the lyrics when you were whistling in a shower, and if that's not a marvelous cross wire. Door wide. eccoci di nuovo in diretta. Mi hanno appena detto che il volume del microfono era troppo basso, ora secondo me è troppo alto. Mi fatemi togliere un po' di mail, ecco, è d'altronde la prima volta anche per me qui in questa diretta un po' strampalata, quindi perdonatemi. Continuiamo a ricevere contributi. Poche ore fa abbiamo ricevuto un contributo di un lavoratore dall'ospedale di Ragusa che si chiama Giuseppe Savasta. Lo salutiamo e ringraziamo ovviamente per l'audio che ci ha inviato e lo rigiro subito a voi. Lavoratore presso il pronto soccorso dell'ospedale di Ragusa, buonasera. Buonasera. Allora, chiamiamo un po' per sapere com'è la situazione in Sicilia, ma un po' in Sud Italia, sia la situazione delle strutture sanitarie pubbliche che anche lo stato dei lavoratori. Qui in Sicilia, insomma, la situazione per ora sembra andare bene. Abbiamo sempre grosse difficoltà, come in tutta Italia, per quanto riguarda i DPI, che è il dispositivo di protezione individuale, che comunque scarseggiano, c'è un po' di preoccupazione anche per questo. Ecco, avete presso il pronto soccorso di Ragusa avete approntato presso l'ospedale di Ragusa avete approntato delle rianimazioni speciali? Sì, per quanto riguarda i presidi ospedalieri della SPE7 sono state approntate sia tende esterne nei vari presidi, quindi parlo di Vittoria, Modica e Ragusa, e, insomma, con task force pronte a intervenire, come già è stato fatto in alcuni giorni fa. Ecco, e si sono registrati degli accessi per Covid-19? Sì, sono stati registrati degli accessi, come si può ben vedere anche dai dati che vengono dati dal Ministero, e sono stati trattati appunto tramite linee guida ministeriali e indirizzati al presidio che l'ASTA ha identificato come presidio per quanto riguarda il trattamento del Covid-19, che è quello di Modica. Ecco, e fra l'altro ho saputo anche che vi sono stati delle nuove assunzioni per fronteggiare questa emergenza. Sì, l'ASP, sia la regione, sia a livello nazionale che regionale, insomma, si è dato un forte impulso verso le assunzioni per quanto riguarda la parte sanitaria, quindi medici e infermieri soprattutto. Il problema è reperire gli infermieri. Il problema è reperire gli infermieri, perché in questa situazione qui già molti lavoravano, molti magari sono già di ruolo al nord e quindi non riescono più a venire qui, perché le aziende ovviamente al nord non le lasciano andare, ci mancherebbe. Però c'è un po' di difficoltà, ecco, in merito. Ecco, ma siete preoccupati per una possibile esplosione della... La preoccupazione c'è sempre perché comunque i tagli in sanità che si sono fatti in questi anni, soprattutto anche nella regione Sicilia, di posti letto, soprattutto per quanto riguarda il personale, ora, come si suol dire, tutti i nodi vengono a pettine. Ecco. E quindi l'aumento così dei posti letto per l'emergenza e non avere personale è il reperimento dei DPI, che è stato drastico e problematico in tutta Italia, ci preoccupa molto, certo. Ecco, fra l'altro, poi appunto la sanità, essendo una questione regionale, ancora prima che nazionale, vede molte differenze, immagino, fra quello che può essere l'assistenza in una regione come la Sicilia rispetto a una regione come può essere magari la Lombardia. Di fatto questa epidemia si è sviluppata principalmente a nord e abbiamo visto che in Lombardia si registrano più di 10.000 casi e la sanità lombarda è sull'orlo del collasso. Quindi voi pensate che la sanità siciliana sia in grado di contenere, di rispondere a questo momento? Noi speriamo, ci stiamo preparando a tutto e speriamo di non avere una forte ondata come si sono trovati ad affrontare tutti i nostri colleghi del Nord Italia. Un'ondata imprevista, improvvisa, e gioca il fatto che noi abbiamo avuto un po' di tempo per organizzarci meglio. Speriamo di. Insomma, si possa rallentare con tutte le misure messe in campo da parte del Ministero, quindi stando a casa, infatti invitiamo sempre e continuiamo a invitare le persone a stare a casa, perché è la cosa fondamentale per evitare il propagarsi di questo virus. Ecco, sì, fra l'altro sei un rappresentante di un sindacato, se ci puoi dire quali sono le Sì. indicazioni di questo sindacato. Sono il rappresentante e il segretario territoriale del NURSIM, il sindacato infermieristico, appunto a tutela della professione infermieristica. Come a livello nazionale, anche qui noi rivendichiamo, insomma, il problema per quanto riguarda questa emergenza, il grosso problema della carenza dei DPI. Per quanto riguarda l'ASP di Ragusa, purtroppo dobbiamo rilevare il fatto che ci sono problemi comunicativi tra parte della direzione strategica nei confronti dei lavoratori. Sono state emanate delle linee guida e delle procedure che non vengono poi effettivamente date a tutti i lavoratori per prenderne atto. Ecco, questa è una cosa che per ora ci sta mettendo un po' in difficoltà. Ecco, un'ultima domanda, volevo farla un po' invece su proprio la situazione in generale, ecco, anche nei paesi del Ragusano, Siracusa, Vittoria, Sì. quindi qual è un po' la sensazione che si ha vivendo questi luoghi in questo momento, qual è anche la sensazione nel vedere tante persone che dal nord ritornano verso la Sicilia, che siano studenti, che siano lavoratori o... quindi un po' anche lo stato d'animo, ecco, delle persone, anche un po' generalizzando, mettiamola così. Beh, insomma, il fatto che molti nostri conterranei siano scesi qui non sia, insomma, non penso che sia stata una cosa molto eticamente ottima. Infatti capiamo tutti, perché capiamo tutti, siamo padri, figli, mariti e moglie, capiamo che però in questo momento forse sarebbe stato il momento di rimanere più al nord che venire qui. Comunque, tutto sommato, chi sta venendo giù sta cercando di registrarsi, fare tutte le procedure, cercano di stare in quarantena, perlomeno cercano di, insomma, adeguarsi, insomma, a rispettare le regole ministeriali. Ecco, avete un po' avuto un senso di rivalsa nei confronti di chi vi ha sempre tacciato per terroni, o c'è stato una sorta di razzismo all'incontrario, da sud verso nord? Come si sono svolte queste Guarda, dinamiche? il problema è no, qui non c'è nord e sud, qui è un problema nazionale. Ci sentiamo più fortunati purtroppo in questa disgrazia perché abbiamo avuto il tempo e cerchiamo i modi per organizzarci meglio. Non penso che ci si possa pensare per ora a un problema tra nord e sud. Assolutamente, assolutamente. Siamo tutti una nazione, in questo momento ci dobbiamo aiutare tutti in tutti i modi. Ecco, l'ultimissima domanda è quella un po', perché Ragusa è un po' il ragusano, ha visto negli ultimi anni, ha affrontato, mettiamo così, l'emergenza migranti, perché vi è un centro di Un accoglienza, hotspot a Pozzallo, sì. un hotspot a Pozzallo, il CARA di Mineo, e quindi diciamo è uno dei punti di approdo sul territorio italiano, e quindi come viene vissuta quella questione rispetto all'emergenza del coronavirus? Ma per quanto riguarda il coronavirus, ma già prima del coronavirus, comunque vengono fatti dei controlli molto serrati per quanto riguarda questi sbarchi, e quindi a maggior ragione adesso sono state prese in carico altre istruzioni operative, sempre relative al caso del coronavirus. Non abbiamo avuto fino adesso nessun tipo di problema, insomma, per quanto riguarda gli sbarchi e per quanto riguarda i controlli igienico-sanitari in merito. Va bene, allora grazie mille e non mi Grazie resta a altro da voi. dire che buon lavoro. Grazie a voi, grazie. Buona serata. Ringraziamo Briccobaldo e Giuseppe Savasta dal pronto soccorso di Ragusa, dal Piemonte alla Sicilia. L'Italia è questa qua, noi diamo voce a chi ce la chiede. Visto che la puntata è monotematica ed è sulla musica italiana e in particolar modo diciamo che circola intorno a quel di Firenze, è il momento dei Mescaria con Fronni Dalia. Buon ascolto. Dalia, scusate, se avevo messo l'accento prima sulla vocale sbagliata. Molto bella Mescaria e salutiamo di nuovo il buon Paul Saulini. Spero che adesso la mia voce si senta abbastanza bene, perché ho alzato notevolmente i volumi, qua rimbomba tutto. Mandatemi dei cenni, fatemi, ditemi qualcosa. Vi volevo raccontare, anzi segnalare un paio di articoli molto interessanti. Ultimamente, come state osservando, stanno uscendo migliaia di articoli, di impressioni, di racconti, di riflessioni, eccetera. Io ogni giorno cerco, insomma, di darmi il limite di due da leggere e vado proprio a cercarli nei meandri meno intaccati, insomma, da molte delle cavolate che si possono credere. E, ovviamente lungi da me da fare ragionamenti sulle cause e da dove viene questo coronavirus, nel senso bisogna discernere, secondo me, tra le cose che noi possiamo sapere e le cose che proprio non sapremo mai. Quindi sulle cose che non sapremo mai lasciamo pure discutere tutti come vogliono in tutti i social, invece insomma sulle riflessioni di quello che sta accadendo e come ci stiamo sentendo e quali possono essere gli effetti futuri, ecco qua invece possiamo starci e soffermarci un po' di più. A tal proposito c'è un articolo interessantissimo di InfoOut, www.infoout.org, di ieri, da dove è arrivato il coronavirus e dove ci porterà. Dentro ogni conflitto c'è uno scontro sulla conoscenza. La pandemia mondiale Covid-19 è la realtà della crisi capitalistica nell'era dell'antropocene. E con questo più o meno si parla di tutto quello che è il tema alla fine di questo inizio di terzo millennio. Un altro articolo invece che verte sull'aspetto proprio più sanitario, visto che è l'altro grosso argomento attualmente in circolo, lo trovate su Medicina Democratica. Loro stanno raccogliendo moltissime lettere da parte di infermiere e infermieri che sono ovviamente in questo momento insomma abbastanza allo stremo delle forze. Salutiamo ovviamente tutto il settore sanitario, soprattutto del nord della Lombardia, che è proprio al limite in questi giorni, e quindi li ringraziamo per tutto ovviamente il lavoro e l'impegno che ci stanno mettendo. E ovviamente c'è qualcuno che poi ha bisogno di sfogarsi, come questa infermiera che ha scritto una lettera dal titolo "Io non ci sto". Bellissima, vi consiglio di leggere, la trovate anche questa su www.medicinademocratica.org. Poi tutti questi link li troverete nel sito Wombat quando verrà pubblicata il podcast di questa diretta, poiché è importante insomma anche che voi possiate riaccedervi. Invece adesso i prossimi 8-9 minuti saranno dedicati a un altro tipo di riflessione, e ringraziamo Stefano Riccesi, filosofo e naturopata, che ci ha regalato dei minuti, insomma, secondo me molto, delle riflessioni molto importanti. Ci soffermiamo adesso soprattutto sull'aspetto della paura e dell'angoscia che questa situazione sta creando inevitabilmente dentro ciascuno di noi. Poi ha fatto anche un altro discorso sull'informazione e l'immaginazione, quello magari lo lasciamo per la prossima volta, se no l'intervista potrebbe essere un po' troppo lunga. Per cui buon ascolto e fate attenzione a queste parole, perché secondo me c'entrano uno dei tanti punti insomma che in questo momento ci sta un po' destabilizzando. Innanzitutto devo dire che mi fa molto piacere poter contribuire a una riflessione in un momento così, in cui la componente riflessiva, la componente del discernimento sembra venuta particolarmente meno. Abbiamo assistito nel corso di un tempo relativamente breve a un'escalation di allarme, passando da una situazione che veniva descritta come relativamente pericolosa, relativa solo a categorie ristrette e vulnerabili della popolazione, a un concetto di pandemia. Quindi c'è stata una trasformazione nella comunicazione, nella percezione molto rilevante, a cui è andato a corrispondere un progressivo aumento della possessione da parte della paura dei cuori delle persone. E questo è il punto su cui vorrei prima di tutto soffermarmi. Come ho già accennato in altri contesti e come ritengo necessario mantenere ben presente, in questo momento sono presenti due virus in circolazione. Esiste un virus fisico, la cui origine io ritengo al momento assolutamente ignota, e mi domando se mai avremo la possibilità di conoscerla effettivamente, e questo vale anche per le sue reali effettive implicazioni. E poi c'è un virus spirituale, un virus psicospirituale, ovvero una narrativa fatta di affermazioni, atmosfere emozionali, reattività di natura terroristica, atta a stimolare i più profondi strati di angoscia presenti nell'anima umana. Questi strati di angoscia non sono coscienti ed elaborati dalla maggior parte delle persone. Per la maggior parte delle persone trovarsi nell'attivazione della paura della morte e di una simbolica profonda e pervasiva come quella del contagio significa perdere il proprio centro di gravità e divenire letteralmente intrisa e controllata da un'immaginazione negativa, da un'immaginazione profeticamente oscura. Purtroppo anche commentatori molto intelligenti stanno cercando di interpretare il virus e anche in contesti, per così dire, divergenti, alternativi, veniamo a conoscere interpretazioni simboliche come il fatto che il virus sarebbe una reazione della natura piuttosto che un messaggio dell'universo o qualcos'altro. Ma io ritengo che sia necessario sospendere questo tipo di interpretazione in gran parte fino a che avremo dei dati certi sulla natura del virus materiale, se mai li avremo, e invece riflettere su come stiamo elaborando, su come stiamo reagendo a quello che sta da un lato succedendo, ma da un lato anche da quello che ci hanno raccontato e ci stanno raccontando. Questa riflessione non è una necessità teorica, è una necessità pratica inerente al fatto che se noi non conosciamo noi stessi il nostro modo di affrontare la realtà, non possiamo accorgerci letteralmente di quando stiamo reagendo in maniera funzionale e di quando stiamo reagendo invece in maniera disfunzionale. Poiché sembra ovvio che nel momento in cui esiste il pericolo di un contagio si teme per la propria vita, allora sembra anche ovvio che la paura che si ha sia un sintomo naturale, una reazione logica dettata dall'istinto di sopravvivenza. Ma l'istinto di sopravvivenza, basta osservare qualunque animale per potercene accorgere, non è mai attivo in presenza di fantasie, stati di panico, pensieri incontrollabili e reazioni ingovernabili. L'istinto di sopravvivenza si manifesta come lucidità. Se vogliamo considerarlo una forma di paura, è una forma di paura lucida e discernente che consente di essere completamente presenti al pericolo così come esso si presenta nel momento in cui si presenta. Molti di noi, purtroppo, invece, in questo momento stanno da un lato condividendo messaggi audio terribili che vengono dagli ospedali, oppure presunte analisi e interpretazioni di dati di dubbia provenienza, oppure stanno semplicemente costruendo sulle loro emozioni commenti su commenti a quanto accade. Questo è evidente in particolar modo sui social. Questo è il virus psichico, è un'influenza spirituale indotta da un lato da una comunicazione che non tiene conto dei pericoli dello scatenare uno stato di angoscia nelle persone. Da un lato, dalla preesistenza nell'anima di ciascuno di un nucleo di paura non digerito, crudo, non elaborato, che nel momento in cui viene svegliato, poiché non è fatto coscienza, appunto è in grado di prendere completamente il controllo del pensiero e anche dell'azione. È per questo che si sentono gli uni giudicare gli altri, altri ancora criticare i comportamenti del proprio vicino, ma sempre e comunque non in relazione all'immagine della realtà, bensì alla presunta realtà in sé, che pochi di noi stanno realmente sperimentando da vicino. La tradizione alchemica ci insegna che l'ente spirituale è una causa di malattia. Ovvero che quando vengono attivate delle forti impressioni attraverso una mescolanza di pensiero ed emozione, e questo può essere fatto intenzionalmente oppure può accadere da sé, ma quando vengono attivate delle forti impressioni, questo produce nel cuore, nella coscienza di colui o colei al quale queste impressioni fanno effetto, una trasformazione profonda che ha riflessi corporei, rompendo il sigillo immunitario spirituale di ciascuno, viene modificato anche il sistema immunitario fisico. Questo significa che la paura ci espone maggiormente al contagio, ma che comunque produce delle somatizzazioni, delle tensioni, delle contrazioni, degli stati di allerta nel corpo che ne diminuiscono la vitalità. E questo è molto pericoloso, molto pericoloso. Per questo, in questo momento è particolarmente rilevante il fatto che chi conosce un po' per un percorso spirituale o meditativo o di tipo psicologico il funzionamento della mente, ecco, è particolarmente importante che ciascuno di noi che ha elementi in questo senso li condivida e li faccia presenti, perché questo virus di secondo livello, che è un virus immaginale, sta mietendo vittime ed è corresponsabile, molto probabilmente, di una parte dei sintomi. Con questo non voglio, appunto, sia mai mettere in discussione l'esistenza fisica del virus, ma semplicemente spiegare come un aspetto psichico possa peggiorare la nostra reazione, non soltanto psicologica, ma globale, anche fisica, al virus medesimo. Quello che questa esperienza del coronavirus ci sta quindi insegnando è qualcosa che probabilmente in parte alcuni di noi intuiscono già, ma che diventerà sempre più importante, ovvero che è necessaria una diversa educazione quotidiana, dei grandi e dei piccoli, alla conoscenza di sé e alla padronanza di sé. Per questo sarebbe molto importante introdurre anche nelle scuole, anche nei programmi di formazione, pratiche meditative, pratiche immaginative e esperienze e insegnamenti sul funzionamento della mente, delle sue relazioni con la materia. Accanto a questo, quello che questo presente ci sta dicendo è quanto sono fragili i canali di informazione a cui abbiamo accesso. A parte il fatto che in questo momento stanno succedendo molte altre cose nel mondo, nessuno si domanda mai esplicitamente che cosa sappiamo veramente. Serve una rivoluzione anche nella nostra idea di certezza, nella nostra idea di conoscenza. E rientriamo dagli studi della Valle dopo una bella intervista a Riccesi, Stefano e la canzone Il Sentimento Nuovo che ci sta proprio a pennello del 1981, F. Battiato. Siamo già arrivati alla fine, mancano una decina di minuti, ci sarà poi la diretta della Garufa fino a tarda notte. Quindi insomma non voglio rubarvi nemmeno 10 secondi alla loro diretta, siamo proprio in chiusura. Volevo un attimo fare il punto della situazione per quanto riguarda secondo me i canali informativi a cui fa riferimento per vedere un pochino quali sono i numeri giorno per giorno. Allora sto consigliando, io sto semplicemente guardando, perché se si vuole insomma parlare di numeri bisogna sapere anche dove cercarli. E allora io, oltre al più in là dell'OMS e della protezione civile, non vado, perché alla fine dal punto di vista dei numeri che si girano sono le uniche fonti attendibili. Poi uno può decidere anche di non guardare queste, figurati, però intanto queste ci tengo a darle. Quella dell'OMS lo trovate sempre con la mappa ArcGIS con tutta la situazione appunto europea e non solo, con l'aggiornamento quotidiano, e quello in italiano, se mettete mappa protezione civile coronavirus su Google, vi viene fuori anche qui il programma di ArcGIS che si apre automaticamente con tutti i dati dalle 6 di ogni giorno, aggiornati per provincia, per regione, e tutti i graficini a un lato che vi fa vedere la curva sta salendo, la curva sta scendendo, olè, non siamo ancora in questa seconda fase, però insomma speriamo di arrivarci presto. E poi un altro dato, altri dati invece proprio alla Yo Excel, lo trovate su www.worldmeters, scritto proprio come mondo metri, worldmeters.info/coronavirus, e qui ci sono tutti i dati mondiali aggiornati via via che un paese manda, i dati ufficiali vengono qui aggiornati in una forma di Excel dove c'è il paese, i casi totali, i numeri di casi positivi, le morti totali e i progressivi di ogni giorno, le percentuali, eccetera eccetera. Sembra di vedere la classifica delle Olimpiadi, Cina al primo posto, no, Italia al secondo con 31.506. Poi Iran, Spagna, Germania, Sud Corea, Francia, USA, Svizzera, Inghilterra, Olanda, Norvegia, Austria. Basta, finiamo qui anche se potrei continuare all'infinito. Quindi vi lascio con una canzone dei Cubania, così proprio abbiamo mandato tutta la carriera musicale di Pozzolini, e anche con una bella poesia, perché è giusto, insomma, ora in questo orario siete già un po' ubriachelli dall'aperitivo, se l'avete cominciato alle 7, immagino che sia il momento in cui dovrete iniziare anche a mangiare qualcosa. Mi raccomando, vogliatevi bene, vogliate bene alla vostra salute, mi sembra che questo periodo serva anche a questo, soprattutto a questo, quindi non vi devastate troppo a casa, ma cercate di utilizzare il tempo magari anche per rimettervi in forma per quando tutto questo sarà finito. Allora scegliamo intanto la musichetta, e direi che, se non sbaglio, questo è tra quelle che il buon Pozzolini ci aveva consigliato, quindi buon ascolto, e poi a finire poesia e a seguire ancora di più la Garufa, Radio Wombat 20 e 24. Chico delicado que nací para el amor, este coche me ha estropeado, para en la esquina, señor, ya me duele la cabeza, tengo estropeado un pulmón, y si sigo en este coche voy a perder la razón. Sono in pace quando c'è poesia. Se davvero siamo qui, voglio provare ad essere qui davvero, immagazzinare luce, offrire premure a voi che siete importanti, dedicarmi all'amore per ravvivarlo, non cercare di togliere la morte, pensare pensieri belli nel pensare alla morte, camminare quando il corpo me lo chiede, osservare l'invisibile mai notato, attraversare un incontro in modo inusuale, ricordarmi che ogni regola è impermanente come gli attimi. Non c'è passatempo e non c'è svago. Sono qui per andare avanti e indietro in ciò che sono. La poesia è il fatto bello che può parlare l'anima. La poesia è il fatto bello che io posso parlare solo del mio corpo e un poco della mia terra. Leggerò poesia ai morti. La poesia vuole stare all'aperto perché la sua aria arrivi nelle tombe. Stea. Sentiamo alla prossima con queste note pianistiche in sottofondo. Camicia e Stea vi salutano a diretta speciale di Wombat. Ci sono stati un po' di saltelli tecnici stasera, era la prima d'altronde, quindi gli errori tecnici non possono non essere sempre dietro l'angolo. Per domani mattina comunque la puntata, la diretta sarà disponibile in podcast sul sito di wombat.loblogs.org, tutta masterizzata. Grazie ai 26.000, immagino io, ascoltatori e ascoltatrici che siete stati con me in quest'oretta e mezzo. E ora linea alla Garufa. Ciao ciao ciao.